Bonham, Ringo Starr, Steve Copeland. Beh, loro sono stati maestri della batteria. Amici, fidatevi, guardiamo in faccia la realtà. Non diventerete mai come loro. O meglio, non lo diventerete mai se vi ostinerete a voler suonare la batteria con le vostre braccia e con le vostre gambe. 1, 2, 3, 4. Pane, burro e rock and roll vi dà l'occasione di diventare batteristi rock con la bocca. Iscriviti al provino gratuito inviando un SMS al 335-100-7777 con la scritta Rock con la bocca sì. Non perdere l'occasione di riscrivere la storia del rock con la bocca. Pane, burro, rock and roll, 8 e un minuto primo. Eccala. Pane, burro e rock and roll. Buona giornata anche a voi, novellini. La colazione rock. Novellini che vi svegliate adesso. Ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Tireremo dritto fino alle 9. Abbiamo qualche problema da risolvere quest'oggi. Ci fa sapere Francè via SMS, che arriva fresco fresco. Guardate ragazzi, che Elio e le Storie Tese avevano cantato Let It Be in italiano un po' di anni fa su Radio DJ in un programma con Linus. No, sì, ma non, noi non l'avevamo sentita quella cosa lì. Guarda che ci stanno copiando loro, non siamo noi a copiare. Noi non copiamo, sapete perché? Lo sa Nico, che è un altro amico che ci scrive via SMS. I geni non hanno bisogno di copiare. Viva pane, burro e marmellata. No, ci chiamiamo pane, burro e rock and roll però. Saluti anche al Topo Scugnizza, che ci scrive anche lui via SMS. Insomma, come ogni giorno siamo in tanti, siete in tanti. E vedremo di tirar duro fino alle 9. C'è il film, o meglio, c'è Abatantuono a tenerci compagnia fino a venerdì, grazie alla scelta della nostra redazione. Insomma, restate con noi, ne sentirete delle belle. Trombetta, ci sei? Bravo. Rinascerò, chef di montagna, oppure migrerò come un maiale migratore. Come un purcello da scogliera, il peperone non si bagna. Guarda, sono i peperoni più belli del mondo, ma non mi piace guardarli. impagabile il lavoro di Roberto Fricantoni, e scatta sempre la scintilla nella redazione di Pane, Burro e Rock'n'Roll nel ricercare i compleanni del giorno, anche in questo 20 di novembre, perché no? Perché forse no? Il figlio della serva il 20 di novembre? No, no. Anzi, è uno straordinario martedì, certo. 20 novembre, evviva il martedì! Evviva il martedì! Minchia, questa settimana la vedo particolarmente positivo, maestro. Sì, sì, sì, ho deciso che basta, voglio vivere la mia vita in maniera assolutamente straordinaria, fantastico, spumeggiante! Era il 1955 quando nasceva la grandissima attrice italiana, comica, Angela Finocchiaro. A me ha fatto sempre ridere tantissimo. Sì, mi fa sì, ridere, sì. E mi fa anche pensare il fatto che sia nata un anno dopo, sì, di me. Può essere. Le ricordo io un paio di film. Quale? Ratataplan di Maurizio Nichetti. Ma ce n'è un altro di Nichetti bellissimo, se lo ricorderà, col cartone fumettato, col cartone animato. Nichetti è sì, un sì, cartone animato, sì, se lo ricorda. Sì, sì, sì, quello che poi assomiglia un po' a Roger Rabbit. Quella più o meno, cosa... sì. Volere volare. Non era quello. Altro compleanno. Posso fare i complimenti a Maurizio Nichetti? Deve. Bravissimo regista, sì, comico. Certo. Uno dei pochi registi assolutamente comici e ironici in Italia. Bene, 1965 nasceva Mike D. Sa chi è? Lo leggo qua, sì, musicista americano dei Beastie Boys, esatto, i ragazzi bestiali. È uno dei Beastie Boys. E chiudiamo con il compleanno di Enrico Brizzi, che nasceva nel 74, scrittore italiano, bolognese. Bolognese, che è diventato famoso anche come caso, soprattutto come caso letterario, sì, perché deve sapere che ha composto un best-seller, sì, all'età di 19 anni. Fortunello lui. Fortunello lui, anche lei molto bravo, molto dotato. A Jack Frusciante è appena uscito dal gruppo, cioè, il riferimento è evidente a John Frusciante, come lei stesso mi ha detto prima, è preciso, come, ma perché me l'ha indicato lei prima, chitarrista dei Red Hot Chili Peppers, esatto, esatto, il quale è un artista, un chitarrista, un artista, un compositore fondamentale per il gruppo dei Red Chili, sì, dei? Dei Red Hot Chili Peppers. Non si mette a piangere, lo prego, tanto è finito il compleanno. Comunque, tanti auguri a Enrico Brizzi. Torna dopo a trovarci con un'altra rubrichetta. Ma sì, verrò volentieri, verrò, perché mi piace il martedì. E beh, che c'è? A glass of wine in her hand. I knew she was gonna meet her connection. At her feet was a fortune's man. You can't always get what you want. You can't always get what you want. But if you try sometimes, well, you might find. Jimmy, a man, did he look reflection. In her glass was a bleeding maid. She was practiced at the art of deception. Well, I could tell by her bloodstained hand. Dei miei radioascoltatori preferiti, maestro, beh, lo devo confessare. Beh, io condivido la sua passione, caro Ariel. Come si fa a non amare questo frugoletto? Il nostro adolescente, preadolescente di riferimento ha preso questo brutto vizio di chiamarci dalla toilette della sua scuola, però già che sia a scuola ci sembra un gran passo avanti. Sì, esattamente, un successone. Dovremmo averlo in linea con noi. Francè, ci sei? Grazie per cantarci la sigla. Bentornato Francè, come Ciao. Va? Sei alla toilette? Sì, star bagno dei maschietti. Sì, esatto. Andare in... oggi sono andato un po' in scuola, sai? Sì. In classe. Sì, esatto. Sei stato anche un po' in classe? In classe è una cosa interessante da fare, Francesco, perché stare a scuola in bagno non si combina un granché. Allora, mo fammi parlare. Sì, sì. Allora, ho imparato. Sì. Ma come? Hai imparato qualcosa? Ho imparato la matematica. La matematica? Le tabelline. Sì. Allora, vado. Sì. Ah, sai le tabelline? Sì, ci fai un esempio? Un esempio, dai. Allora, 3 per 1. Metal! No, ma Francesco, metal! No, Francesco, non puoi. Sì. Metal! No, è una fissazione, Francesco. Sì, ma ha detto male. Allora, geografia. Geografia, sì. Geografia. Allora, sì. Inghilterra. Sì. Iron Maiden. Sì. Iron Maiden, Inghilterra. Esatto, giusto. Poi America Est. Megade, sì, però. In Italia ci sta gli estremo. Vabbè, ci sta gli estremo, non va bene. Vabbè. Francesco, sì. Però questo non te l'hanno insegnato. In Italia, cioè in Inghilterra sta Iron Maiden, America sta Megade, Mollygru. Sì. In Italia sta gli estremo. Hai già dei gusti particolari. Esatto, fai il raffinato. Fai lo snob. Senti, Francesco, chi ha fatto quel buchino nel muro che comunica con il gabinetto delle femminucce? Chi l'ha fatto quel buchetto? Ma io l'ho coperto col poster. A me non mi interessa, sai, sì. Abbiamo imparato che a te delle ragazze devo far piano. Perché c'è star bidello. Bidello si incazza con me. E perché si incazza? Perché sta in bagno. Perché dice che io sporco il bagno del metal. No, in che senso? Ti sporchi il bagno del metal, che tra l'altro poteva essere del bagno del metal. In che senso? Che sta a fare il paio scritta, a parte a cose. Questa fa una scritta grande. Sì. Ho scritto heavy metal is the law. Oh, la miseria. Quindi sai anche scrivere l'inglese. Ah, sai scrivere allora. No, ma allora. L'ho copiato da Metalanna. Quindi non sai scrivere. Quindi stai scrivendo heavy metal. Però si afferma heavy metal, no? Heavy metal. E mo devo arresto, che ancora non ho capito bene. Sì. Senti, ma... aspetta, arriva. No, no, io non c'entro niente. No, no, no, no, non scappare. Francesco, attenzione. Francesco, aspetta. No, no, no, no, no. Eccola, eccola là, è caduta la linea. Anche quest'oggi era arrivato heavy metal. Stava correndo, però. Stava correndo. Sì, perché è arrivato il bidello. Ma speriamo non gli faccia nulla di male. Tira, we'll be right back. e signori, come annunciato, preparatevi per il test attitudinale. La domanda ve la facciamo ora. Prendete carte e penna, i vostri block notes, le vostre penne, verificate che funzionino, perché, ahimè, quando serve, lo sapete, la fortuna è cieca, ma... La sfiga ci vede benissimo, lo sapevo. Esatto, un punto per Ariel. Grazie. E quando serve una penna non funziona mai, sì, verificate che funzioni e aprite bene le orecchie. Quest'oggi andiamo a parlare di un incontro storico. Lui si chiamava Brian Epstein e agli inizi degli anni 60 incontrò nella sua carriera da manager discografico una band che si chiamava Beatles. Li incontrò all'interno di un piccolo pub liverpoolese, si può dire liverpoolese? O liverpooliano. Una roba di questo tipo. Ci documenteremo. E chiese ai Beatles di far loro da manager. I Beatles, come la storia ci ha insegnato, dissero di sì e stipularono un contratto che divenne forse il contratto più importante della storia del rock, sicuramente uno dei più fruttiferi. Nel test attitudinale di quest'oggi andiamo a scoprire che quel contratto in realtà non era tecnicamente valido. Sapreste dirci il perché? Tre le opzioni come al solito. Prima risposta: i quattro Beatles, nell'occasione della firma del contratto col loro prossimo futuro manager Brian Epstein agli inizi degli anni 60, nel 61, erano, ipotesi A, completamente sbronzi. Quindi il contratto non era da ritenersi assolutamente valido. Ipotesi B, il contratto non era valido in quanto John Lennon firmò con il nome di Elvis Presley, quel burlone. Complimenti a John Lennon. Oppure ipotesi C, Paul McCartney e George Harrison non avevano a quel tempo ancora l'età legale per farlo, cioè per firmare da soli un contratto discografico. Se lo sapete, fate la vostra scelta. Se non lo sapete, attendete la risposta. Con estrema fiducia, provateci, spremete le vostre meningi. La soluzione, come al solito, ve la diamo fra poco, la risposta poco dopo.